gli speciali di Radio 24. 18 e 8 minuti, entriamo nella seconda versione di questa fascia, come stiamo facendo da questi giorni, sperando anche di non dover andare avanti nei prossimi giorni. Allora, qualche buona notizia, io ho ancora due ospiti con cui voglio concludere, però poco fa è arrivata la notizia, se la stavo leggendo, da parte della Regione Lombardia, se riesco a riprenderla bene, dove c'è un po' più di prudenza, voglio dire, non di entusiasmo, ci mancherebbe, però un po' più di prudenza. Oggi, poco fa, appunto, il presidente della Regione Lombardia Fontana ha detto la situazione si è stabilizzata, nel senso che i provvedimenti che dovevano assumere sono entrati in vigore. Vorrei però concludere, appunto, con la vicepresidente Federturismo e con l'economista Andrea Beltratti. Quindi, dottoressa Lalli, che cosa chiedete in questo momento al governo, visto che c'è anche un po' di sciacallaggio? Lo dico, nel senso che adesso mi stanno scrivendo delle cose incredibili, albergatori di Sondrio, l'80% delle cancellazioni con inviti dalla Polonia a non venire proprio in Italia, non venire a tanto Sondrio è leggermente distante dalle zone rosse, ma vale per Sorrento, cioè, ed è chiaro, qualcun altro mi dice, beh, anche noi del resto ci siamo avvantaggiati quando il terrorismo colpì l'ISIS, Francia, Spagna e altri paesi, sì, era un po' diverso lì la situazione, non andavi a speculare in quel modo. Comunque, che cosa chiedete al governo per fronteggiare almeno nelle prime settimane l'emergenza, visto che voi siete il settore più colpito, come danni probabilmente parte di questi danni irreversibili? Allora, noi abbiamo iniziato a mettere giù un documento che proprio in queste ore abbiamo preparato. Le prime richieste sono un differimento di 12 mesi delle imposte dirette e indirette, un differimento sempre del pagamento dei contributi, lo slittamento di rate di mutuo con moratoria, una diminuzione dell'aliquota IRAP almeno del 50%, e poi per aiutare anche il settore del congresso e delle fiere, che in cui è stato anche lui particolarmente colpito, un incremento del credito d'imposta per fiere internazionali. Stiamo anche vedendo di capire se è possibile utilizzare parte dell'imposta di soggiorno per un'operazione di marketing, di rilancio. Vabbè, che ci vorrà, adesso è presto, però è chiaro che se i suoi associati riusciranno a abbassare magari un po' i prezzi e fare qualche offerta, ma questo di solito avviene in automatico quando le stanze vuote, non è che però... E a fare una campagna di comunicazione seria, e ammesso non concesso che tutto si esaurisca in pochi giorni e la situazione, insomma, a marzo se più tranquilla, magari si riesce a recuperare una buona fetta, no? Sì, questa è la nostra speranza, perché davvero altrimenti la storia diventa proprio... Sì, basta che poi la comunicazione non la faccia ogni singola regione per i fatti suoi, visto che il turismo è materia regionale, però non ci capiamo più. Occorre una campagna di Enit. Ed una campagna nazionale. Beltratti, qual è la cosa che la preoccupa di più da economista e quella che invece la lascia un pochino più fiducioso sulla dinamica? Mi lascia fiducioso il fatto che tipicamente in queste fasi i mercati esagerano sempre e il pessimismo la fa da padrone, e quindi poi quando le cose si ripetono a distanza anche soltanto di qualche giorno le cose sono sempre meno brutte di quanto sembravano, quindi questo, diciamo, è una ricorrenza storica non soltanto in Italia ma in tutte le economie del mondo da sempre, e questo mi lascia contento e, diciamo, sempre incline a vedere il bicchiere mezzo pieno. Quello che vorrei è, soprattutto da parte del governo, che è un organo politico e che alla fine comunque deve gestire il paese con una visione politica, sociale ed economica e non esclusivamente scientifica, tecnica o tecnocratica, mi invito a riflettere appunto sulle conseguenze economiche complessive e non semplicemente dire che facciamo quello che ci dicono gli scienziati, perché giustamente gli scienziati hanno una visione tecnica di minimizzazione del rischio, ma credo che governare il paese voglia dire qualcosa di più. No, e poi non vorrei mai la gara tra enti locali e quant'altro. Allora, qui nel ringraziare sia Andrea Beltratti che Marina Valli, vado alla cronaca di oggi. C'è tutto il tema della polemica tra Conte e Fontana, che ha raggiunto anche momenti molto alti questa mattina nell'incontro. Poi c'è una dichiarazione adesso del governatore della Lombardia, che ha detto Conte ha rettificato il suo errore, perché l'ospedale Codogno non ha fatto errori, mi sono innervosito io. Non è a rispetto di protocolli del ministero, e poi comunque con Conte ci siamo chiariti, raggiunto chiarimento con Conte. C'è un tema che non è che è di Conte, di Fontana, di Zaia, che noi abbiamo una sanità che funziona molto bene in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, non solo, però tutta regionale. E lo stesso Ricciardi, quindi non un politico, ha detto: attenzione, forse però questa gestione regionale ha reso non così efficiente all'inizio la risposta, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà delle indicazioni. E poi però ogni regione all'inizio è andata un po' in ordine sparso, ecco perché il presidente Conte, il premier Conte, ha detto che arriverà un'ordinanza per uniformare i comportamenti delle regioni. Sentiamo Ricciardi sull'eccesso di frammentazione regionale e poi invece anche sul ridimensionamento dell'allarme. Prima l'eccesso di frammentazione regionale. Il virus non spariscono da soli, ma spariscono attraverso uno sforzo collettivo che si chiama proprio protocollo urbano. Quello che probabilmente è successo in Italia è che dopo i primi casi di Roma, che sono stati gestiti in maniera antologica, la frammentazione regionale, non ne faccio colpa a nessuno. Scusate, blocco il file perché sta parlando il ministro Speranza, ascoltiamolo in diretta. La Croazia e la Germania, che sono comunque molto vicine al nostro paese. È una dichiarazione che tutti abbiamo sottoscritto, che qui in lingua inglese, che possiamo tranquillamente distribuire. Il punto fondamentale è che c'è un convinto apprezzamento del lavoro che sta facendo il governo italiano e c'è un sostegno pieno all'Italia per la gestione dell'emergenza coronavirus che ha toccato negli ultimi giorni alcune aree del nostro paese. E si sono condivisi alcuni punti che io ritengo rilevanti, che rafforzano la nostra cooperazione, la nostra capacità di stare insieme. Tra questi il primo punto mi sembra di particolare rilievo, e cioè tenere aperti i confini. Chiudere i confini sarebbe una misura disappropriata, sproporzionata e sbagliata, quindi questo è l'impegno di tutti i paesi che confinano con l'Italia. C'è l'impegno a condividere e standardizzare tutte le informazioni, c'è l'impegno a condividere anche le informazioni epidemiologiche, quelle mediche, a standardizzare le informazioni che riguardano anche il lavoro dei nostri professionisti, c'è l'impegno a regolari colloqui anche attraverso conference call sia a livello politico sia a livello dei nostri esperti, e c'è l'impegno a valutare il mantenimento a livello europeo in questi paesi. Andiamo da, però dal capo eventi, della protezione civile, perché ci sono numeri aggiornati. E in conclusione voglio presentare accanto a me il professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie. Sta parlando adesso della protezione civile Borrelli. Istituto Superiore di Sanità, che mi affianca nel corso di questa conferenza stampa e che vi potrà poi dare delle risposte per quanto riguarda gli aspetti più propriamente legati all'epidemia e agli aspetti sanitari. Il dato complessivo delle persone contagiate è 322 unità. L'incremento rispetto al punto che abbiamo fatto alle 12 è di 39 unità e il totale dei deceduti, che sono ovviamente compresi nel numero delle unità che ho detto prima, sono 10, e abbiamo sempre la persona guarita, che è il ricercatore che è stato dimesso ormai già da qualche giorno dall'Istituto Spallanzani. Come potete vedere, purtroppo abbiamo registrato la morte di 3 persone nel corso delle ultime ore, 3 persone in Lombardia e persone di un'età adulta, persone che sono ultra ottantenni. Il dato disaggregato per regione è questo: il totale delle persone contagiate in Lombardia è 240, il dato delle persone contagiate in Veneto, con un incremento di 28 unità rispetto al punto precedente, il dato del Veneto è 43, con un incremento di 5 rispetto al dato comunicato alle ore 12, in Emilia Romagna è 26 con un incremento di 3, in Piemonte sono sempre 3, nel Lazio sempre 3, in Sicilia sono 3, perché oltre alla donna che stamattina era risultata positiva al coronavirus abbiamo anche altri 2 componenti della comitiva che sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta, come sapete, di quella comitiva che viene dalla provincia di Bergamo e che era in Sicilia da qualche giorno. In Toscana abbiamo sempre i 2, in Liguria abbiamo ad Alassio una persona positiva e proveniente sempre dall'area del Lodigiano, l'area rossa del Lodigiano. E Bolzano sempre una persona, e quindi questi sono i dati. Interessante anche il dato relativo alle prove di laboratorio. Noi abbiamo detto più volte che nel nostro paese c'è un numero elevato di prove di laboratorio, di tamponi che eseguiamo, lo dimostra il dato che vi do adesso: oltre 8.600 tamponi che sono stati realizzati sulla popolazione. È proseguita l'attività di coordinamento dell'emergenza da parte del nostro. Poi vi lascerò, non vi leggo perché è troppo lungo, vi lasceremo Piero il dettaglio delle persone contagiate per provincia, così poi potrete avere anche un dato aggregato per provincia. Dicevo che è proseguita l'attività di coordinamento dell'emergenza, non ci sono state particolari difficoltà. Io ho parlato col sindaco di Castiglione d'Adda poco fa, più volte col prefetto di Lodi Marcello Cardona, che ringrazio, con tutta la struttura di coordinamento e soccorsi che è stata organizzata a Lodi. Non ci sono particolari criticità, è emerso nel corso della giornata l'esigenza di accentrare in capo al Dipartimento della Protezione Civile il punto di riferimento per l'acquisizione soprattutto dei DPI per il personale sanitario, ma anche delle mascherine che dovessero eventualmente servire alle regioni. Per questo abbiamo immaginato una ordinanza di protezione civile nella quale, che firmerò nei prossimi minuti, perché dopo aver scontato l'intesa dell'ANAC sta per avere l'intesa delle regioni, consentirà di dare una priorità alle nostre esigenze rispetto alle esigenze commerciali, rispetto al mondo produttivo. Quindi nel nostro paese tutti coloro i quali forniscono dispositivi di protezione individuale li abbiamo coinvolti. Qui voglio ringraziare Confindustria, perché solo grazie al coinvolgimento di Confindustria noi potremmo raggiungere tutti quanti gli associati, gli iscritti, i fornitori di questo materiale, e andremo a centralizzare gli acquisti. Questo per venire incontro a una specifica richiesta da parte delle nostre regioni. Ultima cosa, continuiamo a proseguire nelle attività di controlli nei porti e negli aeroporti, rispetto a cui siamo a praticamente oltre 2.700.000 passeggeri controllati e rispetto a cui per fortuna non abbiamo segnalazioni di casi positivi. Io mi fermerei qui, vi lascerei la parola per qualche domanda, 2-3 domande come al solito, se ci sono delle questioni tecniche. Ecco, ricordo che siamo in diretta con la conferenza stampa del responsabile della protezione civile Borrelli, che ha fatto l'ultimo computo dei numeri, quindi diciamo tutto il resto. Sentiamo le domande, è presente anche il direttore del Sacco accanto a Borrelli. Un attimo nel microfono. Per sapere se ci poteva dare qualche dettaglio in più sui 3 nuovi decessi. Si tratta di 2 maschi e una donna. un maschio di 84 anni, un maschio di 91 anni, una donna di 83 anni. Quindi si tratta di una popolazione adulta e questo dimostra anche dalla statistica dei decessi che purtroppo si conferma, e qui però vorrei far intervenire subito dopo di me il professor Rezza, che questa patologia colpisce prevalentemente e in termini di mortalità è molto accentuata per le persone di una certa età. Ma lascio la parola al professor Rezza. Sì, beh, questo era un po' atteso, perché noi abbiamo una popolazione piuttosto anziana in Italia e quindi si spiega il fatto che ci sia un tasso di mortalità del 2-3% dovuto a questo problema, perché gli anziani effettivamente sono più fragili, ma lo vediamo anche con l'influenza, solo che con l'influenza possiamo proteggerli con il vaccino. In questo caso, non avendo un vaccino a disposizione, purtroppo vediamo che la malattia è più grave in queste categorie d'età. Naturalmente vorremmo proteggerli meglio, ma l'unica maniera per proteggerli è circoscrivere i focolai e quindi rallentare la velocità di circolazione del virus, come si sta facendo in Lombardia e in Veneto. Altre domande? Buonasera, Giorgia Sodaro di ADN Cronos. Volevo chiedere sui dispositivi di protezione individuale, se ci può chiarire meglio questa questione. Non ho capito che vuol dire che centralizzerete gli attori. Allora, c'era un'esigenza di evitare la corsa... Siccome l'ho capita io, a differenza della collega, semplicemente siccome la sanità è regionale, c'era bisogno di centralizzare l'acquisto di mascherine e quant'altro, a questo punto la protezione civile... dice faremo gli acquisti unici in modello Consip grazie anche alla collaborazione con Confindustria e da lì poi li daremo alle regioni. Mi sembra al minimo, abbiamo interrotto, io ringrazio ma non avrò bisogno delle colleghe né Alessandra Schepisi né Rosana Magnano, perché praticamente ci ha anticipato tutto e dato gli ultimi aggiornamenti il responsabile della protezione civile Borrelli. Andiamo sul traffico e poi facciamo risentire Ricciardi anche sulle mascherine, ma e anche il punto di Borrelli. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Gli speciali di Radio 24. Allora, riepilogo l'ultimo aggiornamento della protezione civile di Borrelli. Sono appunto da questo punto di vista i casi complessivi 300, eccoli qua, scusatemi che sto riprendendo. Allora, intanto 322, 10 le vittime a questo punto, 3 se ne sono aggiunte. Lo dico col massimo rispetto per le vittime, ma in questo momento va anche fatto notare con estrema chiarezza che sono pazienti non adulti, sono anziani, adesso possiamo, adulto sono anch'io, 83 anni in un caso, 91 anni in un caso, 84 anni nell'altro caso, il che non mi fa sentire allegro, ci mancherebbe, perché nessuno, però continuiamo a avere una conferma che la parte letale, come avviene anche per le influenze pesanti durante l'inverno, sta colpendo persone o con problemi, diciamo, già ricoverati o con un'età, diciamo, avanzata. Non è che per ora è così, io spero che non debba mai cambiare, spero anche che non vi siano più anziani. Comunque il ministro Speranza, l'abbiamo sentito invece, ha detto che dopo aver incontrato con un vertice assieme al ministro Di Maio la commissaria europea e i ministri della salute di Austria, Francia, Slovenia, Svizzera, Croazia e Germania, ha detto che i paesi confinanti non chiuderanno le frontiere. Tornando invece ai casi, appunto sono 322, di cui 240 in Lombardia e 43 in Veneto, che sono i due focolai distinti. Poi, da quello che spiegava anche Borrelli, tutti i casi, Sicilia i tre, erano molti in causa della gita scolastica in visita in Sicilia, due in Toscana, tre in Sicilia, tre nel Lazio, gli altri sono minori, 26 in Emilia Romagna. Volevo però, visto, tra l'altro lo stesso assessore alla sanità Gallera ha detto attenzione perché alcuni decessi sono attendono di essere confermati dall'Istituto Superiore di Sanità come decessi per coronavirus, nel senso che tu magari hai preso coronavirus, ma se la morte è per altro, non possiamo dire che sei morto di coronavirus, un po' come quando si scatenò il panico sull'AIDS, che bastava avere l'HIV per morire di AIDS, magari morivi di sarcoma di Kaposi, uguale, solo che se avevi l'HIV eri morto di AIDS. Attenzione, non è il coronavirus, da quello che abbiamo capito, crea malattie appunto di carattere polmonare, proprio che se tu eri ricoverato per altri motivi, c'è stato un peggioramento per altri motivi, ha ragione Gallera a dire attenzione, dobbiamo dire è morto, diciamo, per altri motivi, non, e aveva anche, era positivo al coronavirus, ma non il nesso causale. Comunque, vediamo, rifacciamo, non sto facendo il virologo della domenica, un decesso è un decesso? No, non sono d'accordo, mi dispiace, devo essere molto cinico, quello che stiamo cercando di capire è se i decessi vanno su una fascia già a rischio, perché lo è ogni anno a rischio la fascia degli anziani, fanno i vaccini nel nord Italia per l'influenza, perché i decessi ci sono, oppure se va a colpire persone sane che non fanno neanche i vaccini. Questo è il discrimine, abbia pazienza, non facciamo il film. Comunque vorrei far ascoltare, poi chiudiamo, Ricciardi sia sulla frammentazione regionale, ma anzi, quello l'abbiamo già sentito in parte. No, mi interessava Ricciardi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché consulente del Ministro Speranza, sul ridimensionamento dell'allarme. Noi dobbiamo lavorare tutti in questa direzione, anche ridimensionare questo grande allarme che è giusto non sottovalutare, ma porre nei giusti termini, cioè quelli di una malattia che è sicuramente da non sottovalutare, ma che sostanzialmente su 100 persone ne consente a 80 di guarire praticamente spontaneamente, a 15 di avere dei problemi seri che però possono essere gestiti in ambiente sanitario, e soltanto a 5, peraltro voi sapete che tutte le persone decedute sono persone che avevano già, diciamo, delle gravi condizioni concomitanti di salute, che probabilmente qualsiasi infezione virale, non specificamente quella del coronavirus, avrebbe portato. Allora, un'altra giornata di passione, vorrei chiudere con un po', sì, giustamente un ascoltatore mi dice, ma come colpisce persone anziane già, diciamo, con problemi? Noi chiudiamo le scuole, i bambini così stanno con i nonni, vabbè, la prendo come una battuta, però insomma, e dove li mandiamo questi bambini? Ci risentiamo domani, dalle 17 in poi.